Pochi sanno che il battesimo costituisce per il cattolicesimo romano uno dei sette sacramenti. Pochissimi sanno che il cattolicesimo romano lo ritiene il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo d'ingresso alla vita nello spirito e la porta che apre l'accesso agli altri sacramenti, 1213. Perciò considerare il battesimo del cattolicesimo romano significa prendere in esame se non la più importante dottrina ed espressione di fede, certamente uno degli aspetti più rilevanti delle sue dottrine. Poiché ciò che è in alto non si regge senza ciò che è in basso, se l'iniziazione del battesimo è una dottrina e un'espressione di fede giusta, valorizzerà anche ciò che essa segue. Diversamente, se è una dottrina sbagliata, anche ciò che segue è da ritenere falso. Poiché per un cristiano la definizione di ciò che è giusto è dettata dalla parola di Dio, poiché anche il cattolicesimo romano ritiene la Sacra Scrittura quale parola di Dio in quanto emessa per iscritto sotto ispirazione dello Spirito Santo. 81. Esaminando il cattolicesimo romano alla luce della Scrittura si parte da un terreno comune. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica sotto la voce La necessità del battesimo leggiamo: il Signore stesso afferma che il battesimo è necessario per la salvezza. Per questo ha comandato ai suoi discepoli di annunziare il Vangelo e di battezzare tutte le nazioni. Il battesimo è necessario per la salvezza per coloro ai quali è stato annunziato il Vangelo e che hanno avuto la possibilità di chiedere questo sacramento. La Chiesa non conosce altro mezzo all'infuori del battesimo per assicurare l'ingresso nella beatitudine eterna. Perciò si guarda dal trascurare la missione ricevuta dal Signore di far rinascere dall'acqua e dallo Spirito tutti coloro che possono essere battezzati. Dio ha legato la salvezza al sacramento del battesimo. Tuttavia, egli non è legato ai suoi sacramenti, 1257, perché, da sempre, la Chiesa è fermamente convinta che quanti subiscono la morte a motivo della fede, senza aver ricevuto il battesimo, vengono battezzati mediante la loro stessa morte per e con Cristo, 1258. Per il cattolicesimo romano, l'iniziazione cristiana si compie attraverso l'insieme di tre sacramenti: il battesimo, che è l'inizio della nuova vita, la confermazione, che ne è il rafforzamento, e l'Eucaristia, che nutre il discepolo con il corpo e il sangue di Cristo in vista della trasformazione in Lui. Essendo per il cattolicesimo romano il battesimo un sacramento, esso conferisce a chi lo riceve dei doni spirituali di portata eterna. Leggiamo sempre nel Catechismo della Chiesa Cattolica, sotto alla voce La grazia del battesimo, le seguenti dichiarazioni. Per mezzo del battesimo sono rimessi tutti i peccati, il peccato originale e tutti i peccati personali, come pure tutte le pene del peccato. In coloro che sono stati rigenerati, infatti, non rimane nulla che impedisca loro di entrare nel regno di Dio. Né il peccato di Adamo, né il peccato personale, né le conseguenze del peccato, di cui la più grave è la separazione da Dio. 1263. Il battesimo non soltanto purifica da tutti i peccati, ma fa pure del neofita una nuova creatura, 2 Cor 5,17, un figlio adottivo di Dio, che è divenuto partecipe della natura divina, membro di Cristo e coerede con Lui, Tempio dello Spirito Santo, 1265. Il battesimo ci fa membra del corpo di Cristo, 1267. Va da sé che se ciò che afferma il cattolicesimo romano è vero, trascurare questo sacramento significa macchiarsi di una colpa enorme. Se invece ciò che afferma la religione cattolica non è vero, non soltanto essa ha detto una bufala, ma conduce le anime sulla via della perdizione. Perciò è più che opportuno rivolgersi alla divina, eterna e infallibile parola di Dio per verificare come stanno le cose. Innanzitutto è indiscutibile il fatto che la salvezza si ottenga mediante un atto di fede e non un rito religioso. Tutto il messaggio evangelico può essere riassunto in questa promessa che troviamo espressa per tre volte nella Scrittura. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Gioele 2,32, Atti 2,21, Romani 10,13. Se il battesimo fosse il primo e principale sacramento per il perdono dei peccati, 1977, perché l'Eterno Dio avrebbe mandato Paolo e di conseguenza gli apostoli in comunione con lui a evangelizzare e non a battezzare. 1 Corinzi 1,17. Infatti Paolo era molto schivo a battezzare, tanto che nella chiesa di Corinto non si ricordava neppure che aveva battezzato. 1 Corinzi 1,16. E vero che Gesù ha detto che chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, Marco 16,16. Ma il battesimo è la conseguenza di un atto di fede, cioè del vero mezzo che giustifica. Romani 5,1. Se il battesimo recasse il perdono dei peccati, i cristiani battezzerebbero tutti, anche gli increduli. Ma poiché occorre prima un atto di fede, il sacramento del battesimo in sé non ha il potere di perdonare i peccati. Se invece il cattolicesimo sostiene che il perdono dei peccati si ottiene mediante la fede, assieme al battesimo, allora la fede in Cristo Gesù non è più sufficiente a dare il perdono dei peccati. Questo è proprio inaccettabile. Il cattolicesimo romano amministra il battesimo anche ai neonati, forse soprattutto ai neonati. Di questo rito leggiamo sempre nel catechismo del cattolicesimo romano, poiché nascono con una natura umana decaduta e contaminata dal peccato originale, anche i bambini hanno bisogno della nuova nascita nel battesimo per essere liberati dal potere delle tenebre e trasferiti nel regno della libertà dei figli di Dio alla quale tutti gli uomini sono chiamati. La pura gratuità della grazia della salvezza si manifesta in modo tutto particolare nel battesimo dei bambini. La Chiesa e i genitori priverebbero quindi il bambino della grazia inestimabile di diventare figlio di Dio se non gli conferissero il battesimo poco dopo la nascita, 1250. Che il sacramento del battesimo abbia il potere di far diventare figli di Dio i neonati, bambini o adulti che siano, è una novità che non trova nessun riscontro nella parola di Dio. È vero che alcune dottrine del cattolicesimo romano sono vicine alla verità, ma questo aspetto del battesimo che perdona i peccati è pesantemente negato dalla parola di Dio. È sufficiente leggere nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1. Gesù è venuto in casa sua, e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Giovanni 1, 11-13. Anche il lettore più sprovveduto riguardo alla Bibbia, nel leggere questo brano, comprende che si diventa figli di Dio mediante un atto di fede. Niente di più, niente di meno. Perché il messaggio potesse essere chiaro e non frainteso, l'Evangelista Giovanni fa alcune precisazioni. Solo con un atto di fede si ha il diritto di diventare figli di Dio, cioè a quelli che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, cioè non mediante genitori cristiani, né da volontà di carne, cioè non mediante una volontà umana, né da volontà d'uomo, cioè non determinata dall'intervento dell'autorità di una persona religiosa, ma sono nati da Dio. Chi desidera diventare figlio di Dio deve solamente accettare la testimonianza di Giovanni, testimonianza confermata da tutta la parola di Dio. Ne consegue che un neonato battezzato non è niente di più e niente di meno di qualsiasi altro neonato che non ha ricevuto nessun rito religioso. Per il cattolicesimo, un neonato o un bambino non battezzato deve essere oggetto delle nostre preghiere affinché sia salvato, 1283. Ma anche questa pratica è frutto di una speculazione religiosa. Al di là delle disquisizioni teologiche, la dottrina del battesimo del cattolicesimo romano ha un aspetto negativo al quale pochi hanno dato importanza. Secondo quanto la religione cattolica esprime nel proprio catechismo, il battesimo è una realtà che comporta la remissione del peccato originale e di tutti i peccati personali, la nascita alla vita nuova mediante la quale l'uomo diventa figlio adottivo del Padre, membro di Cristo, tempio dello Spirito Santo. Per ciò stesso il battezzato è incorporato alla Chiesa, corpo di Cristo, e reso partecipe del sacerdozio di Cristo, 1279. Con una simile prospettiva, chi non cercherebbe di essere battezzato? Chi è quella persona che rifiuterebbe il battesimo? Eppure, nonostante tutto, il battesimo del cattolicesimo non garantisce nulla e in un certo senso è una farsa o buffonata. Sempre secondo il cattolicesimo romano, chi è battezzato, chi è figlio di Dio, chi ha perdonati tutti i peccati, chi è membro di Cristo e è diventato il tempio dello Spirito di Dio, può andare all'inferno, può essere condannato per l'eternità. Infatti, sempre nel Catechismo, leggiamo che la Chiesa, nel suo insegnamento, afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità. Le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale dopo la morte discendono immediatamente negli inferi, dove subiscono le pene eterne dell'inferno, il fuoco eterno. 1035. Se un figlio di Dio, secondo il cattolicesimo, può commettere un peccato mortale, può essere perduto, può essere condannato per l'eternità all'inferno, a che serve il battesimo? Quando mai si è sentito dire che i figli di Dio vadano all'inferno? Da quando chi è membro del corpo di Cristo ed è incorporato nella Chiesa subisce le pene eterne? Se Dio manda all'inferno i suoi figli, che garanzia abbiamo che non lo faccia in futuro anche con chi per ora è salvato? Terribili interrogativi. Ma sia ringraziato Dio che questi terribili interrogativi non esistono per chi ha accettato pienamente il messaggio del Vangelo. Gesù disse: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5:24. Gesù ha fatto un giuramento nell'espressione in verità, e il suo giuramento consiste nell'assicurazione della certezza che chi pone fede in Lui quale Salvatore ha ora la vita eterna, non viene in giudizio per i suoi peccati, ha una esperienza irreversibile, passando dalla morte alla vita. Colui che è diventato figlio di Dio per un atto di fede nell'opera sufficiente di Cristo non tornerà più nella morte, cioè nella separazione da Dio. Questo è il vero messaggio unico ed eterno del Vangelo. Messaggio che il cattolicesimo romano ha negato con il battesimo da lui impartito. Marzo 2005. Ellero.